Buongiorno a tutti, sono Mariangela Pitturru, direzione di Misma Onda. Ogni anno partecipiamo con grande piacere alla progettualità di Bologna Estate, quest'anno con la Città dei Miti, un progetto del Teatro dei Borgia che viene portato in diverse città e inserito, contestualizzato in quello che loro appropriatamente chiamano i luoghi di senso. È una trilogia, quest'anno qui a Bologna noi la porteremo all'ospedale Roncati nel parcheggio, la porteremo alla casa di riposo Lida Borelli e alla mensa della Caritas, e in ciascuno di questi luoghi vedremo esprimersi tre personaggi mitologici che sono Eracle, Medea e Filottete, che altri non saranno che personaggi che stanno accanto a noi socialmente ma sono invisibili, non siamo abituati a vedere, a realizzarne la presenza, e di questo ci dice meglio Giampiero. Io sono Giampiero Borgia, sono il co-direttore artistico del Teatro dei Borgia insieme ad Elena Cotugno e regista e ideatore di questo progetto. Diceva giustamente Mariangela che sono tre eroi dei margini. Abbiamo fatto la scelta di affrontare il mito non nella maniera hollywoodiana e tantomeno nella maniera classica greca. Dai greci prendiamo figure, l'eccezione delle figure delle quali ci occupiamo, ma i nostri sono primi piani, zoomate, fatte su un quinto stato, su un sottoproletariato urbano che abita le nostre comunità e davanti al quale troppo frequentemente passiamo con assuefazione, con indifferenza, con misconoscenza di quelli che sono i fenomeni sociali e le esperienze esistenziali retrostanti la vita di questi esseri umani. Quindi diciamo questi tre spettacoli vanno visti insieme, hanno una loro indipendenza? Ma la formula che noi amiamo è quella della maratona, però la proposta diciamo è articolata, più che di spettacoli ci piace parlare di un'esperienza condivisa con gli spettatori, per cui di fatto dal martedì al venerdì gli spettatori dovranno scegliere ogni giorno a quale dei tre lavori partecipano, essendo in simultanea. Invece il sabato e la domenica facciamo quella che noi chiamiamo maratona, che di fatto è un percorso urbano nei tre siti di cui diceva prima Mariangela, e si parte con Eracle, poi si va da Filottete e in ultimo da Medea. Quindi vogliamo solo ripetere le date precise in modo tale che... Cominciamo il 27 di giugno e terminiamo appunto nel weekend con i due giorni di maratona sabato e domenica, quindi 1 e 2 luglio. Durante la settimana, sempre alle ore 21, la maratona inizia attorno alle 19, finisce verso le 22, per così dire vederli uno dietro l'altro. Tra l'altro abbiamo scelto luoghi di senso e vicini tra di loro in modo tale che lo spettatore ci impiega 10 minuti a piedi per spostarsi da un posto all'altro.